quello, non che non basti quello che è stato fatto finora, è che si sono accavallati diversi piani. Abbiamo notato che tante cose sono sfuggite, sono addirittura sfuggite di mano nel comune sentire, quindi sentiamo proprio questa necessità di rimettere il punto su cos'è, cosa significhi, da dove viene e che cosa si possa fare contro la violenza maschile sulle donne. E questa necessità di riparlare della violenza maschile sulle donne ci è venuta anche da un altro fatto. Cioè, domani mattina, che è l'8 gennaio, alle 10, presso la Cassazione qui a Roma, quindi al palazzaccio, quello che è la Cassazione ufficiale a Piazza Cavour, ci sarà l'udienza per lo stupro dell'Aquila. Non so se voi vi ricordate il fatto che è successo due anni fa, nel febbraio di due anni fa, fuori dalla discoteca di Pizzoli all'Aquila, a una ragazza. Insomma, penso che questo sia un caso che di dominio pubblico, perché è stato molto grave, e che è stata abbandonata morente, è stata salvata per il rotto della cuffia, perché addirittura per la temperatura sotto zero poteva anche morire in poco tempo. E il responsabile è Francesco Tuccia, ma anche altri due militari, ma comunque il processo poi alla fine è stato fatto a lui come stupratore, perché questo è. È stato condannato a 8 anni di reclusione, sia in primo grado che in appello, e l'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione. Allora, leggere la relazione, o comunque dei passi della relazione che l'avvocato della difesa, tale Antonio Valentini, ha fatto per il ricorso in Cassazione, ci ha aperto scenari da brivido, perché ci ha ricordato tanti altri processi per stupro, tanti altri processi per violenza sulle donne, a cui abbiamo anche partecipato e che abbiamo sentito direttamente. E perché questa relazione ripercorre proprio quello che è il calvario che viene fatto fare alle donne quando sono state oggetto di violenza, e poi in questo caso particolarmente efferata, e non solo devono aver subito la violenza, ma sono oltretutto oggetto di una violenza psicologica e personale fortissima. Tant'è vero, vi leggo soltanto alcuni passi di questo ricorso in Cassazione dell'avvocato, perché è tutto incentrato sul fatto che tra i due non ci fu tra i due ci fu consenso esplicito, e poi usa tutti i meccanismi, questi i pantaloni abbassati, i pantaloni non abbassati, quanto abbassati, le ecchimosi che non sono abbastanza forti, sono troppo blande perché ci sia violenza, perché non ci sia violenza, la pratica sessuale che è stata portata avanti non è compatibile, compatibile, non è tanto forte, poco forte, testualmente tra i due ragazzi, cioè vengono messi assolutamente sullo stesso piano, sono due ragazzi, quello è uno stupratore, quali due ragazzi, no? Se vi fu dissenso, se vi fu consenso, se il dissenso fu percepito dal suo assistito, non fu percepito, queste cose, proprio i passi di questa relazione ci hanno, diciamo, un po' fatto venire proprio i conati di vomito. A questo proposito volevamo leggere ovviamente il comunicato stampa del Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila, che hanno convocato il presidio domani mattina davanti alla Cassazione. Processo a carico di Francesco Tuccia, udienza di Cassazione. Il prossimo 8 gennaio 2015 alle ore 10 si terrà a Roma presso la Corte di Cassazione l'udienza del processo a carico di Francesco Tuccia, imputato per i noti fatti relativi allo stupro perpetrato a Pizzoli nel febbraio 2012, ai danni di una giovane donna, studentessa presso l'Università dell'Aquila. Ricordiamo che nel corso del procedimento l'imputato è stato condannato in primo grado nel gennaio 2003 a 8 anni di reclusione, condanna confermata in appello nel dicembre 2013. Nel processo il Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila è stato ammesso come parte civile e come tale sarà ancora a fianco della giovane donna impegnata in questa lunga battaglia per la riaffermazione del diritto di ognuna a vivere libera della violenza maschile, dalla violenza maschile. Rivolgiamo pertanto un appello a tutte le donne a partecipare e a far sentire la propria presenza, ribadendo che la violenza maschile ci riguarda tutte. E vi leggiamo anche uno stralcio del comunicato che hanno fatto le compagne femministe e lesbiche, che a cui potete scrivere scrivendo militari all'Aquila @ anche no. È il 12 febbraio del 2012 quando Rosa si trova con una sua amica in una discoteca di Pizzoli. È sabato sera, all'Aquila fa molto freddo. Nella discoteca non ci sono tante persone, se non quei militari che il terremoto ha portato là per l'operazione Strade Sicure. Verso le 4 di mattina Rosa verrà ritrovata in mezzo alla neve, con una temperatura sotto zero, sanguinante e in stato di non coscienza. Altri 5 minuti e sarebbe morta. Altri 3 militari direttamente responsabili della violenza, almeno 3 militari responsabili direttamente della violenza. L'8 gennaio 2015 alla Corte Suprema di Cassazione si svolgerà l'ultima tappa del processo per lo stupro avvenuto quel 12 febbraio. L'unico imputato su 3 responsabili, Francesco Tuccia, Michele Schiavone e Stefano Buccella, gli altri 2, dopo essere stato condannato colpevole, sta prestando servizio di ambulanza in Campania. Un processo che la dice lunga sull'ipocrisia e sulla violenza istituzionale, caratteristiche di qualsiasi processo per stupro, nei quali è la donna a ritrovarsi colpevolizzata e ridicolizzata, dove il pronto soccorso dell'ospedale cerca di nascondere la violenza efferata prescrivendo solo 20 giorni di prognosi ad una ragazza in fin di vita, dove diventa legittimo che un avvocato difensore faccia il nome e cognome della ragazza stuprata in diretta televisiva, dove il sistema legislativo e giudiziario mostra la non volontà della ricostruzione dei fatti accaduti in quella discoteca a Pizzoli, poiché il piano legale non può rischiare di contraddire la cultura dello stupro che lo regge, una cultura imbevuta dalla violenza maschile sulle donne che permea la nostra società ed è l'arma con la quale esercitano il controllo su di noi. Volevamo specificare appunto cosa si intende dal punto di vista femminista la violenza maschile sulle donne. Intendiamo ovviamente la violenza patriarcale che il patriarcato continua a perpetuare ovviamente sulle donne, e considerandole sempre ovviamente un soggetto debole e addirittura un oggetto, qualcosa che deve essere messo lì e che sia in funzione assolutamente di quello che sono le istanze di chi ha il potere in quel momento, come nel caso appunto della ragazza dell'Aquila che è stata violentata. Nello specifico è stata un'istituzione, perché era un militare messo per le strade sicure. Ovviamente anche tutti i compagni e le compagne che hanno partecipato e hanno dato la loro solidarietà durante il terremoto ricordano perfettamente cosa significava questo strade sicure. Significava dare la carta d'identità o un documento di riconoscimento ogni volta che si ritornava in un campo, nelle tende, significava essere fermati in un posto di blocco o ogni 5 minuti, perché si veniva controllati ovviamente seguendo dei criteri così random, non certo di pericolosità. E su questo appunto noi abbiamo individuato quali sono le istituzioni che generalmente ci opprimono e ci violentano tutti i giorni, quotidianamente, a partire dalla scuola, che ci educa ovviamente a stare al nostro posto, ad essere più femminili o a essere più maschili, che ci chiede di rispondere ovviamente a quello che è il ruolo dello stare della società, no? Quindi nello stare composto, oppure di servire a fare qualcosa, essere bravo in quello, ma non semplicemente per raggiungere un grado di cultura e di educazione di un certo tipo, ma semplicemente perché è strumentalizzabile dalla parte dell'istituzione. Mai come oggi la scuola è diventata un'azienda che ci sfrutta. La sanità che appunto ci sfrutta e ci violenta nel momento in cui conta in giorni la sofferenza dovuta a uno stupro o le botte prese da uno stupro, le chimosi, e quindi traduce, diciamo, in numeri, in quantità, quello che è la sofferenza poi dovuta a determinate questioni. Una sanità che ci medicalizza, ci rende sempre più infantilizzate rispetto a quello che è la gestione del nostro corpo, della malattia, della scelta di vita anche, no? Le strutture detentive, ovviamente queste sono più semplici da individuare: CIE, CARA, carceri, case circondariali, minorili, chi più ne ha più ne metta, sono ovviamente luoghi dove non c'è assolutamente in nessun modo la volontà di nemmeno di fare quello che ritengono loro giusto, cioè nel senso, quando parlano di rieducazione o di luogo dove scontare pene alternative, non è neanche lontanamente vicino a quello che vorrebbero loro. Noi siamo contro il carcere, quindi cioè, neanche quello ci andrebbe bene, però valicano anche quello che promettono. E infatti proprio per questo il termine violenza maschile è usato per definire tutta quella violenza che non è agita soltanto dai maschi direttamente, bensì è agita dai maschi, dalle strutture, come ha detto Noemi, che perpetuano la società patriarcale, quindi dalle istituzioni, e addirittura anche dalle donne che agiscono nell'ottica e all'interno e supportando e ponendosi come fautrici del sistema patriarcale. Per questo noi abbiamo voluto riprendere il tema della violenza maschile sulle donne, perché man mano, dato che le donne hanno raggiunto un livello di emancipazione che le ha portate a assumere dei ruoli anche di comando in svariati campi, e comunque possono, attraverso un'emancipazione soprattutto nel mondo del lavoro, partecipare alla vita sociale anche in ruoli che una volta erano loro privati. preclusi. Questa chiaramente è una cosa positiva, non è che noi sputiamo sull'emancipazione o riteniamo che l'emancipazione non debba essere rifiutata, quando mai, anzi, però è uno strumento, ed essendo uno strumento come tale va vista e non deve essere un fine. Perché questo? Perché trasferire sull'emancipazione dei connotati di liberazione comporta diversi problemi di travisamento di quella che è la lotta femminista, e anche travisamento non solo degli obiettivi, ma anche di quello che le donne fanno. Le donne non necessariamente, noi diamo sempre una lettura materialista dell'esistente, e questo comporta una lettura materialista anche del chiamiamolo così problematica di genere, no? Quindi della violenza degli uomini in particolare per quanto ci riguarda sulle donne. Dare una lettura materialista significa capire i meccanismi con cui funziona la società e indagare le ragioni strutturali che portano alla violenza di genere. È per questo che noi vorremmo rifare il punto cercare di comprendere in questo preciso momento come si sono modificate le oppressioni che agiscono su di noi, come la violenza di genere viene agita con meccanismi che sono anche nuovi rispetto ad anni passati, e quindi cercare di smascherare e di scoprire questi meccanismi perché non si perpetuino. Prendendo appunto spunto da questo ricominciare da tre, che speriamo non sia o non ricominciare da zero, parlando appunto di domani, di quello che succederà al processo, volevamo anche prendere spunto per specificare che la violenza non è per forza una violenza sessuale, fisica, che ci deve toccare, lasciare lividi, ma ci sono varie tipologie di violenza, almeno ne abbiamo, diciamo, individuate delle macro categorie che non vengono mai considerate, perché appunto nei processi per stupro, come anche in situazioni meno gravi rispetto al processo, però sempre importanti, si chiede sempre vabbè, ma lei l'ha provocato, vabbè, ma lei come si è comportata. Il silenzio per noi è sempre comunque un no, cioè nel senso non sono neanche tenuta a dovermi ribellare o a specificare la mia non volontà nel voler avere una relazione di qualsiasi genere e tipo con una qualsiasi persona, anche perché non su questo è vero, le donne vengono sono mira comunque di fastidi continui, no? Da parte di chi vuole strumentalizzarle, vuole usarle, vuole violentarle, vuole toccarle, perché tanto noi siamo considerate un oggetto che deve essere la mercé, veniamo vanificate sempre alle puttane, perché se non siamo buone siamo per male, quindi siamo puttane. I ruoli e le categorie sono sempre le stesse. Quindi insomma pensavamo di individuare la violenza sessuale ovviamente come pratiche sessuali non desiderate, quindi in cui c'è la coercizione sulla sessualità durante un rapporto, oppure scene pornografiche, essere prestata a qualcuno per un rapporto sessuale, insomma tutte situazioni che ruotano intorno a quello che concerne la sessualità. La violenza fisica, che può essere anche uno spintone, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, rompere oggetti, lanciare oggetti, tirare i capelli, calciare, cioè tutto ciò che è di fisico e che è violento nei confronti dell'altra persona. Poi ci sono le forme, ovviamente, quelle che riguardano anche poi un approccio più materialista, no? Che è la violenza economica, che è la violenza in cui si viene privata della propria autonomia, del proprio controllo, perché appunto non si può prendere i soldi da un conto corrente, oppure, cioè, nel senso, ci sono varie forme in cui le donne possono essere violentate economicamente. Non è che bisogna pensare semplicemente al film, no? Non materialista, ma materiale. Materiale, sì, scusate. In cui appunto la donna viene tolta dalla propria autonomia, indipendenza economica, anche attraverso il lavoro, no? E per cui appunto, se rimane incinta, deve firmare la lettera di licenziamento, se non è abbastanza giovane non può fare quel lavoro, cioè, nel senso, c'è sempre una costrizione rispetto a quello che è la sua funzione nella società a livello economico, perché ancora abbiamo una cultura patriarcale che ci vuole a casa a non fare assolutamente niente. Anche se questo ovviamente si spalleggia con l'emancipazionismo spinto, no, alla se non ora quando, di cui parlava prima Eli. E poi c'è un altro, che è forse quello meno tangibile, no, che è la violenza psicologica, che è una violenza anche che entra dentro, che ti permea la pelle, che non, magari non neanche la donna in sé non sa gestirla, perché magari si rifiuta di ammettere che effettivamente sta subendo una violenza psicologica, che può essere comportamenti di stalking, l'induzione ad attacchi di panico, attacchi di ansia, il sentirsi trattata come un oggetto, non sentirsi assolutamente accettata, ma solamente denigrata da parte delle altre persone. Quindi questo ovviamente è ancora più complesso da spiegare, perché capitano molti casi in cui c'è addirittura il rinnego rispetto e l'autocolpevolizzazione, che è poi la vittimizzazione e l'autocolpevolizzazione sono due forti nemici poi dell'autodifesa e di quello che poi come femministe proponiamo per rompere questa gabbia violenta in cui ci vogliono buttare. E infatti, diciamo, ci sono un mare di stereotipi in cui veniamo rinchiuse, no? Stereotipi che vengono continuamente ribaditi e che vengono rimbalzati, si rimbalzano in maniera anche molto superficiale, diventano luoghi comuni e comune sentire, no? Come quello che la violenza verso le donne sia un fenomeno poco diffuso, invece è diffusissimo, come che sia relegato soltanto a determinate fasce sociali, quelle più povere, fasce sociali emarginate, contesti familiari meno acculturati, e invece è un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico, culturale. Non c'è assolutamente differenza di età, religione, etnia, no? E poi, che per esempio ormai noi l'abbiamo ripetuto tantissimo, che il rischio di violenza non viene da parte, nella stragrande maggioranza dei casi, da parte di uomini estranei, ma i luoghi più pericolosi per le donne sono le case, gli ambienti familiari, gli aggressori sono i partner, gli ex partner, amici, colleghi, insegnanti, padri spirituali, vicini di casa, no? E poi, per esempio, si crede che soltanto alcuni tipi di maschi maltrattino la compagna, invece è stato assolutamente impossibile definire il maschio maltrattatore, se vogliamo chiamarlo così. Perché? Perché è una caratteristica, mi dispiace dirlo in questi termini, però è una caratteristica che viene dalla strutturazione del ruolo maschile. Allora, chiaramente non tutti gli uomini sono maltrattatori, però il maltrattatore è basato, il maltrattamento e il maltrattatore si basano su delle caratteristiche ben precise con cui è strutturata la realizzazione maschile in questa società. Tant'è vero che il fatto che il maschio eserciti violenza sulle donne dipende proprio dal ruolo che questa società, cioè che il modello socio-economico, gli ha affidato. Una cosa su cui noi abbiamo tanto discusso da diverso tempo ormai come coordinamento è l'importanza dei ruoli in questa struttura sociale. Mai come in questa fase, chiamiamola capitalista, il maschio è stato tanto maschio e la femmina tanto femmina, se possiamo dire così, semplificando. Perché? Perché la società capitalista, rispetto alle società precedenti che pure erano patriarcali, per cui c'era una realizzazione anche in quelle società, nessuna mitizza società passate, anzi, però il capitalismo ha delle caratteristiche precise, no? Per cui ha determinato in maniera precisissima i ruoli, togliendo al maschio ogni caratterizzazione femminile, togliendo alla femmina ogni caratterizzazione maschile. E in questo loro essere molto specifici ha trovato il collante per poter costruire la famiglia mononucleare, che era funzionale, che è funzionale a questo sistema. Quindi il maschile e il femminile sono dovrebbero essere l'uno funzionale all'altro, seppure in una posizione subalterna. Perché? Perché la società capitalista è fortemente gerarchizzata e non possiamo pensare che la gerarchizzazione che costituisce la filiera del comando di fabbrica poi non venga trasferita a tutta la società e non costituisca anche la filiera del comando all'interno della famiglia. E rispetto appunto a quello che è il ruolo maschile pretende da esercita violenza sulla donna, perché appunto ci vede come una propria, o come una proprietà, quindi una proprietà affettiva in questo, in alcuni casi una proprietà semplicemente sessuale, e mette in discussione, e quando viene messa in discussione, ovviamente, cioè nel senso, nel momento in cui viene messo in discussione il maschio alfa, no, il nella sua mascolinità, nella sua virilità, ovviamente c'è questo appunto esercizio del ruolo maschile sulle donne, e questo vale da contesti come quello familiare ad altri, insomma quello lavorativo, e quindi la donna deve essere sempre dominabile e controllabile, non può essere mai fuori da questi due canoni, no? Non può non adempiere ai suoi ruoli. Poi certo, in questa società in cui la precarietà, anche poi un minimo di coscienza che si sta smuovendo all'interno comunque di questo momento storico, sta portando ovviamente tante domande anche da parte, no, di chiunque si chiede perché c'è questo ruolo, anche di gente comune che si domanda: ma perché fare la madre è per forza questa cosa? Perché io devo per forza fare questo? Perché io devo essere così maschio e non lo sono? Cioè, nel senso, effettivamente poi ci sono delle crepe che si stanno creando, cioè nel senso non siamo più negli anni 50, anche se dal punto di vista economico, sociale, culturale in realtà siamo regrediti forse peggio degli anni 50, perché gli anni 50 forse hanno teso verso gli anni 70, gli anni 60, quindi c'è un rinnovamento culturale, una messa in discussione di quello che era la società patriarcale di quel tempo. Noi stiamo regredendo perché ovviamente le istituzioni, il capitale tende a rischiare schiacciarci, a gerarchizzare meglio, perché c'è stato un momento in cui le cose forse si sono un po' troppo messe in disordine, ma non, questo non significa che il capitale non sapeva che non si sarebbero messe in disordine. Il capitale ha strutturato perfettamente ogni sua singola fase, e quindi è più la percezione che abbiamo noi di quello che sta succedendo, no? Che ci sembra appunto che ci sia stato un momento in cui forse sembrava che ce l'avremmo fatta, e questo rientra assolutamente nella gestione dei ruoli, con le leggi securitarie che vengono messe, no? A nome della sicurezza delle donne, dei bambini e non so, dei vecchi, che però sono leggi che aiutano semplicemente il controllo sociale a schiacciarci sempre di più e a renderci sempre più poveri in tutti i sensi. Allora, vorremmo chiudere questa prima parte facendo un attimo la sintesi, il punto, se possibile, perché gli argomenti sono tantissimi, di quello che abbiamo detto. Abbiamo detto che noi nominiamo la violenza sulle donne come maschile, perché la violenza maschile non è operata soltanto dai maschi, ma è operata dalle istituzioni, dai maschi, dalle istituzioni e anche da altre donne, nell'ottica della società patriarcale. Abbiamo detto che uno dei fondamenti della gerarchizzazione all'interno della famiglia è la struttura economica borghese, e quindi del ruolo che viene dato al maschile, del ruolo che viene dato al femminile, perché in pratica, perché funzioni, alla donna vengono richieste tutta una serie di prestazioni, al maschio vengono richieste tutta una serie di prestazioni, e in pratica, per semplificare, lo sfruttamento al massimo livello della forza lavoro maschile e anche tuttora della forza lavoro femminile, perché si è leggermente spostato ed è diventato, per noi è diventato un doppio sfruttamento, dipende moltissimo dal controllo e dalla gestione del lavoro di cura e del lavoro di produttivo. Tant'è vero che tutta la grande il grande controllo che c'è sull'aborto, sulla contraccezione e compagnia bella non è altro che il controllo del lavoro di produttivo che fanno le donne. Abbiamo detto che la violenza può essere di diversi tipi e che soprattutto agita comunque all'interno degli ambiti familiari, e allo stesso tempo che il tipo di violenza che viene agita dalle istituzioni e comunque dalle strutture in cui siamo inserite fin dalla nascita è funzionale alla creazione, alla costruzione, all'inserimento delle donne all'interno di questo modello, che è funzionale allo sviluppo economico in questo momento e che quindi ha una base tutta funzionale a un discorso strutturale. Tant'è vero che questo è importantissimo, questo tipo di discorso, perché adesso vedremo nella seconda parte della trasmissione che si tende a spostare la violenza sulle donne su altri piani che non sono quelli strutturali e di configurazione socio-economica, e vengono agite da questa società l'oppressione ed il controllo nel momento neoliberista in maniera leggermente diversa che in passato, comunque con delle modalità sue proprie. E adesso mandiamo la parentesi di Elisabetta per staccare un attimo dall'argomento violenza maschile sulle donne, e poi ritorniamo a parlarne. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Vigili e Chomsky. I vigili e le vigili urbane e urbani di Roma sono oggetto di un attacco tanto insensato quanto infondato. L'amministrazione capitolina, di fronte al fatto che i vigili, che non hanno aderito ad una prestazione straordinaria volontaria in concomitanza con il capodanno, ma non erano quelli attaccati ai soldi, ha modificato i turni di lavoro, commettendo un palese sopruso, e ha richiamato in servizio personale in ferie o a riposo, violando consapevolmente lo strumento della reperibilità che andrebbe utilizzato solo per le catastrofi. E siccome a buttarli i numeri fa sempre effetto, ha sparato la cifra di 835 dipendenti coinvolti, saltando a piè pari ferie, riposi, maternità. Ma d'altra parte, cosa aspettarsi da un sindaco che è dirigente del PD, medico trapiantista e che ha nominato Alfonso Sabella assessore alla legalità e trasparenza? Alfonso Sabella, che nel 2001 venne nominato coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8 di Genova. Rientravano tra queste attività anche quelle tristemente note che si svolsero a Bolzaneto. Sotto gli occhi di tutti è che il suo comportamento in quell'occasione non è stato certo irreprensibile, anzi, il Tribunale di Genova, anche se escluse il dolo, considerò tuttavia tale comportamento gravemente colposo. Pur emettendo una sentenza di archiviazione, il Tribunale invitò a tener conto in altre sedi della correttezza del suo comportamento per prendere le opportune misure disciplinari, misure che, come si sa bene, non furono mai adottate. Ma i vigili urbani se ne facciano una ragione, sono in buona compagnia di netturbini, infermieri, insegnanti, ferrovieri, perché i veri destinatari di questo attacco sono i lavoratori pubblici e pubbliche, tutte e tutti etichettati e etichettate come fannulloni. Il metodo usato dal neoliberismo è sempre lo stesso: si individua una categoria sociale a cui addebitare le colpe del malessere collettivo e da dare in pasto ai cittadini. Quindi, di volta in volta, i pensionati sarebbero parassiti che costano troppo alla collettività, i commercianti, i liberi professionisti, i piccoli imprenditori, evasori fiscali a cui addebitare il tracollo dello Stato sociale. È la traduzione nel tessuto sociale della truffa della crisi economica, che serve a giustificare privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupazione di massa, smantellamento dello Stato sociale, della sanità e dell'istruzione pubblica, svendita delle imprese statali e privati, possibilmente alle multinazionali. In pratica vengono adottate la strategia della distrazione, che consiste nel distogliere l'attenzione dai problemi importanti, facendo infervorare i cittadini e le cittadine su temi di volta in volta scelti allo scopo, e la strategia della gradualità, facendo accettare misure inaccettabili passo dopo passo. Si perde così di vista la totalità del progetto in un susseguirsi di provvedimenti sempre separati fra di loro. Il neoliberismo è riuscito a mettere giovani contro anziani, dipendenti pubblici contro dipendenti privati, il popolo della partita IVA contro i salariati, i poveri contro i miserabili. In definitiva ha rotto la solidarietà tra lavoratori e lavoratrici e solidarietà tra oppressi e oppresse, compresi uomini e donne, al di là delle belle parole e delle pelose iniziative. È questo che bisogna oggi ricomporre. Tutti gli strati sociali e i ceti massacrati dal neoliberismo, che per la loro sopravvivenza possono e devono unirsi contro il tentativo, per ora riuscito, di naturalizzare il neoliberismo nella società. È questo infatti il senso della parola riforme e della cosiddetta modernizzazione. E questo il ruolo dei quisling, degli ascari, dei collaborazionisti e collaborazioniste, dei sindacati concertativi, che hanno accettato il principio, assolutamente contrario allo spirito e agli scopi dello sciopero, di un'autorità, come se questa fosse neutrale e super partes, che dello sciopero stesso programmi e pianifichi lo svolgimento, perché non arrechi danno, dicono loro, alla cittadinanza. È questo il ruolo dei governi di ispirazione presidenziale piddina che si sono succeduti in questo paese a partire dal governo D'Alema. I vigili e le vigili urbane e urbane, di fronte a questo accanimento violento e strumentale, dovrebbero chiedersi come si sono comportati e comportate quando gli attacchi sono stati rivolti ad altri settori. E dovrebbero riflettere sul fatto che dal sentirsi lavoratori e lavoratrici appartenenti proprio al mondo del lavoro e in senso lato di sinistra, hanno fatto un percorso per cui premono per entrare nel comparto sicurezza e hanno voluto essere armati. Forse loro non hanno letto Chomsky e i suoi 10 punti, ma Renzi e Sodali sì, e utilizzano come costume dell'attuale socialdemocrazia riformista le categorie di sinistra per meglio stravolgere la comprensione dei loro obiettivi e naturalizzare anche qui da noi il neoliberismo e una società di tipo statunitense, ribadendo il modello degli USA che si presentano e propongono come stato del capitale. Il neoliberismo è una società medievale, ottocentesca e nazista, ed è un crimine contro l'umanità. Ciao di nuovo, vorremmo riprendere il discorso sulla violenza maschile sulle donne, partendo adesso da quello che questa società, questa configurazione neoliberista in cui siamo, mette in atto. Perché? Perché attua delle oppressioni in maniera insomma un po' diversa rispetto al passato. Prima di tutto l'oppressione sulle donne ha una connotazione che viene dal politicamente corretto e dal percorso socialdemocratico che è stato vincente dopo le lotte degli anni 70 e le ha inglobate e praticamente devitalizzate. Cosa significa questo? Che si è appropriato del discorso della violenza sulle donne e l'ha nominato, e questo non è uno sbaglio, anzi sarebbe giusto, però allo stesso tempo l'ha strumentalizzato, e adesso vedremo come. questa configurazione neoliberista opera violenza e oppressione sulle donne. Allora, una, abbiamo detto che attraverso il politicamente corretto strumentalizza la violenza che viene usata sulle donne per portare avanti tutto un discorso di vittimizzazione, già ne aveva parlato nella prima parte Noemi, di vittimizzazione, di infantilizzazione e fa in modo di ricondurre le donne sotto la tutela delle strutture di Stato. E non solo questo, ma attraverso la strumentalizzazione della violenza sulle donne fa leggi securitarie, mette in atto controlli sociali serrati, le famose telecamere dappertutto. Fra poco, dato che la violenza avviene per lo più nelle case e nell'ambito familiare, metteranno le telecamere per la nostra sicurezza. Ma su questo abbiamo molti film, no? di cyberpunk che ci fanno vedere questi scenari apocalittici in cui veniamo controllati da telecamere, da strumenti tecnologici che vedono qualsiasi momento della nostra vita. Già è così, perché nel senso tutte le cose tecnologiche che ci propongono ovviamente sono a servizio, no, del potere capitalista e patriarcale, non sono certo a nostro uso e vantaggio. Poi è ovvio, cioè, nel senso, su questo compagni e compagne che si occupano di questo ambito di analisi rispetto all'uso e l'utilizzo della tecnologia sapranno spiegare molto meglio di noi questa strumentalizzazione, certo. No? Noi la banalizziamo molto in questo momento, però nel momento in cui ti chiedono di pagare tutto con la carta, di fare tutto così, di essere guardata ogni 30 secondi su quello che fai, ogni negozio ha 1000 telecamere, ogni parte della tua vita viene registrata appena ti colleghi o accedi a qualsiasi strumento tecnologico, cioè, nel senso, è ovvio che non, cioè, di noi sanno tutto e sanno tutto di tutto ciò che vogliamo, anche i nostri desideri, tra virgolette, che sia appunto che hai guardato online per comprarti una cosa usata e poi ti appaiono 700.000 cose, no? Dopo, sì, successive, sì, sul fatto che tu volevi comprare una cosa e ti tartassano, no? Cioè, sei controllata 24 ore su 24. E questo ovviamente ha portato in una situazione in cui si è venduta la crisi economica, no, come questa emergenza sociale staccata dal capitalismo, perché non è che le classi sociali proletarie, medie, piccole non abbiano avuto una crisi economica o comunque un abbassamento di quello che è la possibilità comunque di anche comprarsi davvero da mangiare. E questo è avvenuto, però è avvenuto senza una critica, no, strutturata rispetto a quello che il neoliberismo stava attuando, perché ovviamente era strumentale non far capire che cosa dare, appunto, certo, come privilegi, no? Dai la colpa a chi si prende le ferie non pagate, ribadendo ovviamente che non ne siamo tanto amiche dei vigili, né ovviamente ci riteniamo, no, portatrici di un sistema che sia più o meno simile a quello capitalista, ma che funzioni un pochetto meglio. Cioè, e vogliamo ribaltare questa cosa, ma questo ha portato in realtà a aumentare, a acuire la guerra tra i poveri, no? Con gli immigrati, con le donne, con i soggetti deboli. Le quote rosa portano comunque a tensioni in ufficio rispetto a quello che poi sono state, dal punto di vista emancipazionista, delle decisioni che magari all'epoca potevano anche sembrare ok, noi non abbiamo la possibilità, è il primo frangighiaccio che ci troviamo, può essere utile come strumento, ma in realtà poi c'è stato ribaltato contro di noi, c'è stato dato da loro e poi c'è stato dato per l'invidia sociale, no? Che tu puoi, come non so, quello che ha il parcheggio per le disabilità, o l'immigrato che non so può andare alla Caritas a prendersi un pasto e diventa che non e spendiamo soldi per mantenere, non so, flotte di immigrati che vengono in Italia con numeri che non stanno né in cielo né in terra, o appunto le donne lavorano solamente perché se non ci avessero le quote rosa fondamentalmente staremmo tanto volentieri a casa, ma anche no. Cioè, una serie di ragionamenti che ci hanno etichettato, no? Che ci riportano alla divisione in ruoli. Certo, ma c'è proprio questo, che l'uso che ha fatto la socialdemocrazia della violenza su di noi e il trattarci come dei panda, delle panda, non le macchine, delle femmine di panda, in via di estinzione, quindi il creare orti protetti, il creare vittimizzazione, situazioni privilegiate, tra virgolette, però sempre di sudditanza e vittimizzanti, ha fatto passare nel comune sentire quella che giustamente Noemi chiamava invidia sociale, no? Allora, questa cosa merita due parole in particolare. Perché? Perché ci ha colpito moltissimo quello che sta attraversando il pensiero maschile, soprattutto quello che ci interessa, perché gli uomini di destra, gli uomini reazionari, gli uomini cattolici, tali sono e tali rimangono. Il problema è che questo pensiero sta attraversando gli uomini di sinistra. In che senso? Ci è capitato di incappare in siti, blog, articoli vari di intellettuali, giornalisti, uomini che si ritengono e sono di sinistra, e che parlano delle donne in maniera estremamente, definirei il termine livorosa forse, no? Cioè con livore, con rancore, con una sotterranea e malcelato fastidio. Allora, al di là di questo, che possono essere incappati in soluzioni personali, in problemi personali che possono averli segnati, eccetera, però non è questo che ci interessa. Ci interessa l'osservazione che persone che normalmente usano categorie marxiste, percorsi analisi materialiste per indagare l'esistente a tutti i livelli, per indagare il politico, per indagare quello che sta succedendo in questa società, eccetera, nel momento in cui parlano di femminismo, parlano di problematiche delle donne, parlano anche di emancipazione o comunque di rapporti di genere, e abbandonano completamente la lettura marxista e la lettura materialista e abbracciano una lettura che è assolutamente interclassista, parlano delle donne come prevaricatrici e comunque quelle che sono depositarie di tutta una serie di privilegi, e che questi privilegi gli vengono riconosciuti da questo sistema e che di cui loro si fanno forti. Questo è molto preoccupante, non per le cose specifiche che abbiamo letto, è perché sta passando un comune sentire per cui le donne, grazie a queste leggi, a tutte all'attenzione al genere, sono delle privilegiate, e questa categoria privilegiata starebbe tartassando i maschi. Chiaramente questa è una lettura che ci lascia allibite, perché è assolutamente fuori da ogni analisi e da ogni percorso di analisi che noi facciamo continuamente nel politico e nel sociale. Cioè, noi dovremmo usare gli stessi meccanismi, no? È come se noi dicessimo: ah, poverini, gli imprenditori, i grandi industriali sono tartassati, poverini, gli operai vogliono sempre di più, si fanno pagare sempre di più, oltretutto sono anche senza responsabilità, quando vanno a casa loro si sono presi lo stipendio e non pensano più a niente. Cioè, noi come popolo di sinistra in senso lato, tra virgolette, non ci verrebbe mai in mente, no? E neanche a loro verrebbe mai in mente di affrontare un problema in questi termini. Bene, eppure il problema, le questioni di genere vengono affrontate da moltissimi nel popolo di sinistra in questi termini, e questo è un segnale d'allarme, perché significa che il neoliberismo è riuscito a destrutturare, grazie a questo meccanismo della strumentalizzazione della nostra oppressione, a destrutturare la comprensione del fenomeno sia della violenza sulle donne, sia dell'oppressione sulle donne, sia dei ruoli di genere in questa società. E quindi è una destrutturazione che si accompagna ed è parallela alla distruzione delle categorie di classe. In chiusura volevamo ricordare Sakineh, Fidan e Leila per il secondo anniversario dell'omicidio avvenuto a Parigi il 9 gennaio 2013 delle compagne kurde Sakineh Kansiz, Sara, Fidan Dogan, Robijin e Leila Sailemez Ronai. Il 10 gennaio 2015 si terrà una marcia con lo slogan: il vostro silenzio è dovuto al vostro essere complici. La marcia per la verità e la giustizia partirà dalla Gare du Nord alle 10 del mattino e procederà fino a Place de la République. Quindi questo era importante per noi, per ricordare e mantenere la memoria femminista su tutte le azioni, perché siamo complici e solidali. E il nostro pensiero più caro va a Sakin, Fida e Leila, che non hanno avuto bisogno di pari opportunità. Quadrarosa è 50 e 50, ma sono morte per aver scelto da che parte stare. Vi salutiamo, ci sintonizzeremo mercoledì prossimo alle 20, sempre su Radio Onda Rossa 87.9. Vi ricordiamo il nostro blog per vedere i materiali: coordinamenta.noblogs.org, e la nostra mail se ci volete scrivere: coordinamenta@autistiche.org. That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really happening. My hands, I could be here. There